Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Benvenuti e buon sabato, finalmente, perché abbiamo un tema caldo da discutere insieme a voi. Ve lo faccio dire da Alberto Pellai, perché so che siamo su posizioni assolutamente discordanti. Alberto, ciao! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Mamma e papà, mani al portafoglio, perché oggi dovrete decidere se con i vostri figli siete troppo generosi oppure un po' corti di braccini, come si dice, cioè un po' avarotti. Si parla della paghetta, si parla in realtà di come si deve educare al giusto consumo, che poi è anche il giusto risparmio, i nostri figli. E tu, Nicoletta, cosa fai a casa tua? Ah, io devo dire che le ho provate tutte, ho provato a dare paghetta settimanale, paghetta mensile, poi non bastava, poi fare uno straordinario su dei piccoli lavoretti che facevano a casa, ma fatto salvo, no? Mettere in ordine la stanza non è retribuito, apparecchiare e sparecchiare la tavola è una collaborazione che facciamo tutti. Insomma, devo dire che uno ormai a 18 anni si sta trovando dei lavoretti e quindi guadagna un po'. L'altra a 16 anni è totalmente a rimorchio nostro, ci sono degli incontri scontri, da questa casa non è un albergo, ma sopravviviamo. Però abbiamo pensato di dare voce ai ragazzi che abbiamo ascoltato per capire un po', no, che aria tira, se la paghetta viene data, non data. Ci sono dei genitori che preferiscono darla a mese, altri a settimana. Sentiamo. 14 anni e non ho la paghetta, però ogni volta che ho bisogno mi danno tutti i soldi che mi servono. E li uso per fare tante cose, magari se non lo so, devo andare da fuori a mangiare oppure devo andare al cinema, in discoteca, li uso per questo. Ho 14 anni, no, i miei genitori non mi danno la paghetta e hanno anche un po' ragione, perché a casa non faccio alcun lavoretto domestico, a parte apparecchiare, no? Io ho 14 anni, la paghetta me la danno 20 ore a settimana, perché aiuto mia madre e tengo i miei fratelli. 4 giorni a settimana li tengo e li spendo uscendo con gli amici, comprandomi qualcosa. 16 anni, mi danno 25 euro al mese e boh, la spendo, boh, dipende, cioè, se mangio fuori, se vado fuori a bere. Un po' abbigliamento così, compro a loro e per il resto faccio io. 17 anni, prendo 20 euro al mese, un po' nei vestiti, mangiare con gli amici, così. E ho 16 anni e tipo mi danno 25 euro alla settimana e tipo li spendo in sigarette e basta. Tutto il resto, vestito così, cioè i vestiti e quelle cose là me le pagano tutte loro. Vi dico subito che Alberto Pellai, sentendo la ragazzina che diceva le spendo in sigarette, ha avuto un mancamento. Sai che pensiero ho fatto? Che di tutti i nostri intervistati... Un pensiero di padre. Esatto, di tutti i nostri intervistati era quella che riceveva più soldi, 25 euro alla settimana, e guarda caso è quella anche che ha inserito nelle sue spese quotidiane probabilmente la cosa che tutti noi vorremmo nessuno dei nostri figli comprasse, cioè le sigarette. Ma allora noi oggi, per aiutare me anche e anche voi, Alberto Pellai è ancora un po' fuori perché paghette a bambini di 6 anni non ne sono previste, dai delle piccole mance? No, al momento al niente momento, paghetta. Non metti mano al portafoglio. Abbiamo qua in studio con noi un Maria Teresa Cometto, ciao! Ciao! E arriva da New York, direttamente a Milano, è qua con noi perché è autrice di Figli e Soldi, quindi una vera esperta. Ci puoi dare una mano anche sentendo e aggiornandoci su quello che capita oltreoceano. Certo. Poi soprattutto sei una mamma. Sono una mamma, ho una figlia di 15 anni e mezzo, il libro l'ho scritto con mio marito, Glauco Maggi, sì, anche lui giornalista, e parte in gran parte innanzitutto proprio dalla nostra esperienza di genitori e come tutti quanti prima o poi bisogna affrontare il tema, affrontare il problema, che cosa si risponde al figlio quando ti chiede soldi, e la risposta può essere o di volta in volta decidere a seconda della richiesta che cosa fare, cosa dare, dire sì o no, oppure prendere questa richiesta come spunto per parlare di soldi, di denaro, di cosa significa risparmiare, spendere, guadagnare, e per cercare quindi di introdurre alcuni concetti di educazione finanziaria e alcuni metodi, una certa disciplina nella spesa dei propri figli. Senti Maria Teresa, non so se tua figlia cade bene o cade male, perché tu, essendo una giornalista finanziaria, quindi le idee chiare ce l'hai, quindi Sì, ma infatti secondo noi la paghetta, al di là della cifra, poi possiamo discutere quanto è giusto o non è giusto, la paghetta al di là della cifra è un modo per aiutare i nostri figli a essere responsabili e a gestire un proprio bilancio in pratica, cioè la paghetta dovrebbe proprio partire da una discussione fra genitori e figli su quali sono le loro esigenze, i loro desideri, discutere quelli su cui siamo d'accordo, per cui evidentemente anche io non sarei d'accordo che la paghetta venisse spesa in fumo, però è anche vero che i figli per crescere devono fare degli errori anche per conto loro, devono anche fare magari delle spese frivole che noi non condividiamo, delle spese così e quindi devono avere una propria... Infatti è quello che mi dice mia figlia Carolina, che rimane sempre squatrinata a metà mese, e io le dico: ma allora devi stare attenta, perché no, vuol dire che invece che andare a mangiare a l'una del venerdì fuori con i tuoi compagni ogni tanto salti. E lei mi dice sempre: sbagliando si impara. Per adesso sta sbagliando, ma poi magari dopo questa trasmissione imparerà anche lei. Ma tu dopo gliene dai altri di soldi oppure? Allora io cerco di tenere duro dicendo: no, ormai ti arrangi, non importa, rinuncerai a delle cose, eccetera. Poi a volte riusciamo a tenere duro, a volte invece sbraghiamo, ma anche lì anche i genitori sbagliando imparano. Certo. A proposito di genitori, Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi nel libro ci fanno proprio entrare in casa loro, e tutto il tema figli e soldi comincia con una storia di vita. Un giorno la figlia, e quel giorno è il 5 febbraio del 2007, domanda e dice a loro queste cose. Mamma, papà, ci ho pensato bene. Ho 14 anni compiuti da un pezzo e credo sia ora di avere la mia copia delle chiavi di casa. Me l'ha detto anche il portinaio l'ultima volta che gliel'ho chiesta, perché voi non eravate in casa. Andare a casa da sola, avere la mia carta di credito perché è cool, comprare un giaccone invernale Picot al posto di quell'infantile piumino che porto sempre, lasciare lo zaino con le rotelle che è dorky e passare una borsa Messenger a tracolla e prendermi un portafoglio da grande. Devo dire che le idee chiare ce le ha. Assolutamente, è stato proprio un punto di svolta nella sua crescita. Ma perché il 5 febbraio? E chi lo sa? E la coincidenza ha voluto che proprio quel giorno ci telefonasse la casa editrice Sperling per chiedere veramente? Questo libro, una coincidenza veramente incredibile. Un segno del destino. Un segno del destino, evidentemente. E chissà, il 5 febbraio, evidentemente perché ha 14 anni compiuti, lei si è sentita diversa, si è sentita cambiata, si è guardata intorno e ha deciso che voleva avere anche dei segnali che testimoniassero il fatto che era diventata più grande. E direi che le sue parole sono secondo me molto significative del fatto che diventare grande per i nostri figli da una parte sia diventare autonomi, ci sono molte richieste di autonomia, ma anche diventare grandi consumatori, cioè entrare nel giro del grande mercato dove ti sembra di essere diventato grande perché scegli tu certo. Le cose che ti vuoi mettere addosso, non te le sceglie più. Non quell'infernale piumino, vedi? Ma cosa vuol dire dorky? Che è proprio... Anch'io me lo sono chiesto, non lo sapevamo. Dorky è l'esatto contrario di cool. Cool credo che sia entrato anche abbastanza nella terminologia italiana, ormai vuol dire di moda. Sì. Ecco, dorky è esattamente il contrario. Quindi un ragazzo, una ragazza dorky sono quelli un po' imbranati, con gli occhialoni spessi che sono un po' tagliati fuori, ecco. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati, genitori di manica larga, braccini corti, state con noi perché oggi parliamo di paghetta. C'è un momento, no, nella vita di nostro figlio in cui dobbiamo fare i conti con le sue richieste, che spesso sono legate ad una maggiore autonomia, quindi le chiavi di casa, ma lì, no, sarebbe tutto sommato semplice. E invece poi ti chiedono questa paghetta settimanale o mensile, poi la confrontano con gli amici, la paghetta non basta mai. Ne vogliono, no? Vogliono delle aggiunte. C'è il papà di Tommaso che ci ha mandato una lettera, e allora noi l'abbiamo fatto diventare una sorta di piccolo caso per la nostra esperta. Vediamo come ci aiuta a risolverlo. Dopo la pagella del primo quadrimestre, che bisogna ammetterlo è stata particolarmente brillante, mio figlio Tommaso ha cominciato a fare un pressing pazzesco su me e mia moglie, reclamando un adeguamento della sua paghetta. Ad oggi riceve 20 euro alla settimana che, fatti i dovuti conti, gli permettono di trascorrere il sabato sera in compagnia degli amici mangiando una pizza o andando a vedere un film. Va detto inoltre che a Natale e per le feste Tommaso riceve da nonni e parenti mance varie che accumula su un proprio conto corrente. La sua attuale richiesta è però un po' sproporzionata, secondo noi. Chiede il raddoppio della paghetta perché vuole avere soldi da spendere in libri, CD, DVD, videogames, insomma, per le sue passioni. A me e mia moglie 40 euro a settimana a 14 anni sembrano troppi, ma come si fa a capire cosa è davvero giusto? Parlando con altri genitori mi accorgo che c'è chi non dà niente e chi addirittura dà 70 euro a settimana. Insomma, quali criteri seguire per educare al consumo, ma anche al risparmio, un figlio da poco adolescente? Vado io dai genitori che danno 70 euro a settimana, ma no, Alberto, ti candidi anche tu? Decisamente tanto, e secondo me proprio mi sento di dire come educatore: attenzione a non esagerare. Questo è proprio uno di quei campi dell'educazione dove è bene negoziare, ma è bene anche avere chiaro in testa che cosa servono i soldi per i nostri figli. In questo caso abbiamo una vera sfida educativa, perché Tommaso non li chiede a casa i soldi, cioè ha aspettato di portare a casa un'ottima pagella. Con questa dice: mi merito un po' di più, potete fidarvi, Tommaso, di me. È... E poi ho anche tanti interessi e non riesco più a soddisfarli con quei 20 euro che mi date tutte le settimane. Perciò lui raddoppia la posta da 20 a 40. Beh, loro ci provano. Sì, loro raddoppiano subito, in modo che si riesce a trovare una via di mezzo. Cosa fare con un figlio che ti chiede addirittura il raddoppio della paghetta? Ecco, ci sono due cose. Una è la paghetta in cambio di che cosa, e gli abbiamo dedicato parecchio spazio nel nostro libro. Abbiamo anche fatto una specie di sondaggio fra una trentina di famiglie, di amici e conoscenti sparse fra America, Italia e il resto d'Europa. Ecco, la nostra tesi è che la paghetta non va data né per i lavori di condivisione della vita, certo, familiare, come diceva Nicoletta, ecco, ma neanche per i bei voti a scuola, perché anche quello fa parte del loro dovere normale, quindi è giusto, è doveroso che vadano bene a scuola e non per un voto particolarmente brillante si meritano un extra, secondo noi. Quindi noi diciamo che distacchiamo la paghetta da un incentivo di questo tipo e la leghiamo invece alla capacità di autogestirsi. E allora qui può subentrare il discorso di quanto. Dipende, perché dipende da come è nata la cifra della paghetta e che quale autonomia, quale responsabilità si dà al proprio figlio. Allora, per esempio, tutti quanti, un altro dei problemi con i figli adolescenti è... ok, comprare vestiti, comprare scarpe, ma di quale livello? Certo. Quali griff, quale costo? Sappiamo benissimo che le scarpe possono costare dei patrimoni incredibili, e così pure i vestiti. Allora, conosciamo famiglie che per esempio delegano ai figli adolescenti l'acquisto dell'abbigliamento, diciamo così, griffato, comunque che loro non pagherebbero di tasca propria, oppure fanno pagare la differenza. Allora uno dice: ok, io per un jeans spendo volentieri 20 euro, supponiamo, sì. Se tu ne vuoi uno da 100, caro mio, te lo prendi tu con i soldi che hai preso dai nonni, con Alberto, quello che tu come la vedi? Hai guadagnato. Sì, io credo che di questi tempi, dove davvero lo stesso paio di scarpe, a seconda del logo che ha su, può costare 20, 40 oppure 100, una buona anche negoziazione 200. Ed educazione al consumo può essere: io arrivo al livello basico, tu sei libero di comprare qualcosa di più, ma a quel punto ti ci devi impegnare con i tuoi risparmi. E direi che è un modo anche consapevole, in due sensi: se loro vogliono davvero quel logo e quell'oggetto, nel momento in cui lo acquistano mettendoci loro la differenza, ne avranno infinitamente più cura, cioè sapranno che dovranno davvero tenerselo da parte, perché sanno quante mance dei nonni ci vogliono per compensare. Benedetti la nonni, differenza. Eh beh, certo che ogni tanto rimpolpano la paghetta più o meno. Io ho una domanda che proprio mi riguarda invece in prima persona, cioè... Non ti danno più la paghetta, Alberto. No, ma vorrei capire quando si deve cominciare il discorso della paghetta, in base alle vostre esperienze, anche a quello che voi vedete fare in America, cioè a che età un bambino è pronto per capire il valore dei soldi e capire anche che si può gestire. Ma questo dipende molto dal livello di maturazione del singolo bambino. Sappiamo che i bambini maturano in tempi e modi molto diversi fra di loro, per cui abbiamo avuto per esempio l'esperienza di una mamma che è raccontata nel libro, che aveva lei deciso di dare la paghetta alla figlia di 6 anni, ma questa bambina non le poteva interessare di meno, quindi non li spendeva, non li usava, non capiva che cosa fossero, mentre ci sono bambini precocissimi che già a 5 anni organizzano il mercatino dei loro giocattoli vecchi per guadagnare, per comprarne di nuovi. Quindi quello sta molto alla sensibilità dei genitori e alle richieste poi dei bambini. Certo, se i bambini cominciano, perché tutti i bambini comunque, se entri in un negozio, se entri da qualche parte, ti chiedono il giocattolo, ti chiedono il dolce, ti chiedono questo e quello. Ecco, già quello potrebbe essere comprato con la loro paghetta, se si decide che sono responsabili per gestire qualche euro la settimana, ovviamente, se si comincia all'elementare. Io devo dire che ho iniziato forse tardi, ma all'inizio del liceo, perché quando le ragazze hanno iniziato quarta ginnasio, prima il liceo scientifico, ad avere una loro autonomia, a gestire anche il loro tempo, a uscire, magari a vedersi con i compagni, fino alla terza media ce la siamo cavate con mancette dei nonni piuttosto che il regalo, le cose, ma non avevamo proprio stabilito una paghetta fissa. È iniziato, ahimè, dal liceo. Quindi Alberto, tu hai ancora del tempo, stai sereno. E volevo chiedere a Maria Teresa, che insieme a Glauco sono proprio giornalisti di economia e di finanza, quando i nostri figli ricevono dai nonni mance, per esempio, spesso in occasione del Natale possono essere anche quote considerevoli, è importante per esempio fargli attivamente fare il percorso verso la banca, far vedere che si può aprire un conto corrente a proprio nome, lì depositarlo, oppure lì teniamo noi genitori al bisogno? Cioè, come fare per dare un'educazione tra virgolette economica a un bambino di 8-9 anni? Beh, certo, utilizzare i conti correnti per bambini è un modo molto pratico di iniziare l'educazione finanziaria e per esempio far capire che quando si prendono i soldi al bancomat non è un regalo e i soldi non piovono dal cielo, ma vengono perché prima ce li hai portati. Sì, cioè, molti bambini vedono il bancomat come un'isola felice che sputa soldi, no? Esatto. Che problema c'è? Vai al bancomat? Vero? E quindi avere confidenza e cominciare ad avere i primi rudimenti di cos'è una banca e come funziona è utile, sarà molto utile per loro da grandi. Senti, tra l'altro, proprio nel brano che abbiamo sentito, che ha dato proprio il via, no, al vostro libro, la tua bambina ti chiedeva una carta di credito. E quindi esatto, ci sono genitori che si stanno convertendo anche a queste carte prepagate, che danno autonomia ai ragazzi, ma allo stesso tempo, no, sono caricate di un tot di soldi e quindi una gestione. Ci sono alcune domande nel vostro libro che ogni tanto i genitori si sentono fare dai propri figli. La prima domanda è questa: se uno ha più figli, il più grande probabilmente prende con la paghetta più soldi del più piccolo, che naturalmente farà rivendicazioni, perché a lui che ha 3 anni più di me date il doppio della mia paghetta, io voglio essere trattato come lui. Cosa deve rispondere un genitore in una situazione così? Beh, se si tratta di fratelli con età diverse, questo è abbastanza semplice. Ma sì, devo dire che le mie non hanno avuto problemi. No? Fratello grande paga più grande, fratello piccolo paga più piccolo. Certo. Poi toccherà anche a te. Esatto. Noi fra l'altro suggeriamo come regola un uso che è abbastanza diffuso in America, cioè quello di dare fino a una certa età almeno 1 euro per anno, quindi per esempio 8 anni 8 euro, 10 anni 10 euro, e quindi è chiaro che c'è un automatismo con l'età, automatismo che poi si spezza a un certo punto quando arrivano ai 14 e 15 anni, perché lì, come dicevamo prima, poi stavo pensando ai famosi bamboccioni, no? Di cui si capisce, no? Perché nelle famiglie in cui questa regola non viene. Allora, ripetiamo, facciamo una sorta di vademecum, decalogo, anche se non in 10 punti, un mini decalogo. Io direi proprio 3 parole chiave: quando, quanto, perché. Da quando cominciare con la paghetta ai propri figli? Quando cominciare? Quando il bambino comincia ad avanzare delle richieste di soldi, di spese più o meno voluttuarie, e quella è l'occasione per cominciare a parlare di soldi e per stabilire una paghetta minima. quanto proviamo a dare un'idea, uno standard, ecco, per un preadolescente di 11 anni, per un primo adolescente di 14 anni e per un adolescente di 17 anni? Fino all'infanzia, alla preadolescenza, noi suggeriamo di dare un euro per ogni anno, quindi a 10 anni 10 euro per esempio. Per gli adolescenti bisogna concordare insieme quali sono qual è il budget e quali sono le spese consentite ai propri figli, e quindi si può arrivare anche facilmente ai 20 euro alla settimana, considerato cinema, pizza e... Il discorso diventa difficile se uno ha più di due figli, perché ci sono famiglie in cui, no, i figli sono tre o quattro e diventa veramente diventa un problema, certo, e beh, allora è l'occasione per fare un discorso sul budget, certo, familiare, su cosa la famiglia si può permettere. E anche noi diciamo, perché noi non vogliamo assolutamente suggerire che la paghetta debba essere usata per viziare i figli, al contrario, deve essere usata per responsabilizzarli e anche per incentivarli, per esempio, a darsi da fare, per arrotondare per conto proprio. Tu, Nicoletta, hai detto prima che la figlia più grande ha cominciato a fare lavoretti, ed è una cosa assolutamente da incentivare per i ragazzi di 17-18 anni. Andate a cercarvi lavoretti. Noi ne suggeriamo, fra l'altro, nel nostro libro Figli e Soldi, parecchi. Per esempio, i ragazzi sono bravissimi con i computer, ci sono tanti lavori che possono essere fatti. Questa casa non è un albergo. Ed eccoci di nuovo insieme, pronti per parlare dei modelli dei nostri figli. Entriamo subito nel tema ascoltando la nostra rubrica Pensieri di padre. Si può avere come proprio mito personale Paris Hilton? Mia figlia Antonella, 14 anni, ha la camera tappezzata dei suoi poster. Da quando è uscito il CD Canta e balla al suono delle canzoni, non so se è appropriato chiamarle così, della suddetta. Io neanche sapevo che esistesse. Poi ho fatto una ricerca in internet e sono rimasto senza parole per la pochezza e la vuotezza del personaggio. Anche noi avevamo i nostri miti, ma erano personaggi di tutt'altro spessore. Di certo non erano diventati famosi grazie a video porno scaricabili in internet. Sono senza parole e anche indignato dalla facilità con cui i nostri adolescenti si lasciano abbindolare dalle loro riviste preferite, cartaccia di poco conto. Insomma, si può vietare ad una figlia di avere come eroina personale un'innominabile qualunque come quella ragazzina viziata? Ma quanta rabbia questo papà! A me sembra un po' esagerato, no? Alberto? Ma io penso che in realtà è un papà che si sta facendo una domanda che molti genitori si sono posti, e devo dire però con dei toni molto accesi. Allora, per cercare un po' di capire, di prendere un po' una giusta distanza, no, da queste affermazioni, che quando gli estremi sono sempre, come dice la parola, un po' tirati per i capelli, abbiamo in linea con noi la professoressa Chiara Simonelli, psicoterapeuta e sessuologa molto vicina al mondo degli adolescenti. Benvenuta, bentornata. Grazie. Bentrovati, un saluto di buon sabato a tutti. E con noi oggi abbiamo, come sempre, un opinionista. Questa volta l'abbiamo presa a 5 stelle, una giovane donna, 22 anni, di grande successo. Direi assolutamente di un successo che non si può assolutamente paragonare, no, a quello di Paris Hilton, Alberto. Assolutamente no. Diremo che invece che non avere nulla addosso, ha molto addosso. Io so che vuoi presentarla tu, dai Alberto, presentala. Sì, anche perché sai che è una mia futura collega, sta studiando medicina, ma lei è diventata famosa perché ha pubblicato con Feltrinelli due romanzi. L'ultimo si intitola Io sono di legno, ho finito di leggerlo proprio ieri, gliel'ho detto anche prima al telefono, l'ho trovato di una bellezza e di un'intensità rara. E lei al nome. È Giulia Carcase. Un applauso. Giulia, benvenuta, fai la nostra opinionista, poi dopo tutte queste smancerie di Alberto Pellai. Infatti non sembravo io dalla presentazione. Infatti, ma lui è un po'... lui, devo dire, che è un grande tuo ammiratore. Abbiamo già parlato anche del tuo libro. Allora, ritorniamo al tema di oggi. Professoressa Simonelli, ma è vero che stiamo allevando delle baby, delle lolite, ecco, mi piace di più come termine, in qualche modo un po' troppo condizionata delle immagini che vengono proposte. Adesso sul tavolo degli imputati abbiamo messo Paris Hilton, ma non è mica solo lei a voler dare questi messaggi. No? Saremmo a cavallo se fosse così, no? Se ci fosse solo Paris Hilton. Purtroppo, diciamo, negli ultimi anni questa tipologia di modello femminile, ad esempio che è stata anche poi molto criticata, insomma, no? In una parola facciamo riferimento, non so, alle veline, volendo dire, insomma, quella è una giovane donna graziosa che sa fare poco e niente, ma viene apprezzata appunto per l'estetica, insomma, in qualche modo, no? E personaggi molto che sia vero o falso, e questo poi ogni persona immagino avrà, come dire, una sua storia e delle sue scelte, ma insomma che sono anche molto molto disponibili ad arrampicarsi verso un successo, quindi visto questo come un trampolino di lancio, ed è un modello molto molto diffuso. Ricordo di aver visto anche delle interviste a giovanissime che appunto avevano come obiettivo proprio quello di potersi mostrare, insomma, no, magari in televisione, per poi scalare il successo e arrivare a diventare, ecco, una Paris Hilton. Quindi effettivamente sì, questo c'ha un suo riscontro, no? Ero un po' d'accordo su questa apertura, forse un po' eccessiva come tono di questo padre preoccupatissimo, perché c'è sempre stata, no, una contrapposizione di generazionale, quindi tra genitori, come dire, ai miei tempi lì c'erano i valori, c'era tutto che funzionava. Sì, adesso sembra che non funzioni più nulla. Ecco, non è poi così, secondo me, no? No, non credo che sia proprio così, però certo un fenomeno di queste dimensioni e di questa pochezza forse non l'avevamo ancora visto, no, in questi termini, perché è veramente molto, cioè colpisce molto tutti quanti, no? Anche se si è... Sì, perché proprio è una cosa che colpisce gli occhi, no? Questa immagine che, d'altra parte, diventare famosi perché si, cioè in qualche modo mostrando il corpo, se mamma natura ci ha dotato di un bel corpo, sembra un po' la strada più semplice, e poi non è l'uovo di Colombo. Sentiamo un po'. Guarda, colpisce gli occhi, ma colpisce purtroppo anche il cuore e la mente di un adulto e non solo di un genitore. No, certo, ma colpisce gli occhi in senso, dicevo, lato, no? È talmente visibile, è impattante. Giulia, tu come la vedi? Sì, no, come modello Paris Hilton. Certo. Neanche Britney Spears. Penso che, vabbè, innanzitutto bisognerebbe distinguere tra la musica che uno ascolta e poi prendere veramente a modello Paris Hilton. Cioè, il papà si dice preoccupato perché la figlia ascolta il CD e lo canta dalla mattina alla sera, però... Può esserci anche semplicemente un fascino ritmico e niente di più. Penso che purtroppo un fenomeno di questa generazione è quello che abbiamo una tendenza verso le scorciatoie. Sì. E poi viene confuso quello che è un fine poi con un mezzo, cioè alla fine ecco, io mi sono trovata molte volte a sentirmi dire da alcune ragazze: ah, io vorrei essere famosa come te. Eh sì, perché uno vede il successo e non capisce cosa c'è dietro, no? Sì, ma è una conseguenza quella. Certo. È una conseguenza e non dovrebbe essere vista come un obiettivo. Uno cerca di fare, secondo me, quello che nella vita gli riesce. E poi questo, se si chiama talento, insomma, in qualsiasi modo si possa chiamare, però porta con sé delle conseguenze. Siamo un po' tutti ossessionati, sono quelli della mia generazione, sono un po' ossessionati dalla fama, dal look, anche perché comunque c'è una TV che propone modelli estremamente puliti, estremamente patinati, e quindi tendiamo verso quell'essere perfetto che poi è fisicamente, proprio a livello fisiologico, impossibile. Cioè, alla fine il sogno di essere come Paris Hilton, ma credo che anche Paris Hilton abbia la sua cellulite, i suoi problemi e i suoi pianti. Chiara Simonelli, che dice? Beh, io sono molto molto contenta di questo contributo di Giulia, perché appunto è un'alternativa tra le possibili di una donna giovane che evidentemente per tanti modelli diversi che avrà avuto e per il suo modo di essere che poi ha sviluppato offre al mondo un'idea in alternativa, no? Quello che si diceva prima, quindi anche rispetto alle frustrazioni, che se tu scappi poi tanto ti inseguono e ti raggiungono magari anche aumentate di volume, no? È vero. Sembra intelligente fermarsi e come dire, bere l'amaro calice quando c'è, no? E capire delle cose che sono spesso un attacco anche al proprio narcisismo, no? da questo falso sé che molti coltivano come se fosse un fiore raro, no? Abbiamo allora qualche chance per parlare per essere ascoltati, per competere con questi messaggi così forti? Chiara Simonelli. Guarda, c'è un rischio banale che è insito proprio nell'età di cui parliamo, no? Cioè, se il genitore appunto si schiera apertamente con un giudizio negativo su questi modelli proposti, il rischio è quello di incoraggiare un figlio che nell'adolescenza naturalmente si deve contrapporre. Certo. È il modo migliore per farli ancora attaccare di più. Esattamente, quindi questo rischio va tenuto presente, no? Perché per fare una cosa buona si può finire col fare il peggio. Sì. La possibilità di dialogare con loro e di offrire modelli alternativi, io credo che in un periodo medio-lungo sia vincente. Quindi mai a fare appello al giudizio, al disprezzo in quanto tale, anche se ci viene proprio... Sì, fingiamo di non... Teniamoci a bada che è una bella palestra anche per noi, perché d'altra parte quando eravamo adolescenti abbiamo conosciuto esattamente la stessa cosa su altri fattori, con altri miti e modelli, no? Non è che i nostri genitori allora non facessero discorsi analoghi, no? Quindi, assolutamente. Quindi facciamo un po' tesoro di questo, la crescita poi non smette mai, non finisce mai, quindi possiamo ancora imparare delle cose anche noi, no? Sì, per fortuna, no? Meno male. Giulia, volendo tirare un po' le fila di questo discorso, tu che sei diventata adesso, Alberto, quando parlava dell'America, ha detto adesso se conoscono la Giulia Carcasi, è finita, gli americani impazziscono, è in tutti i giornali e appare Giulia Carcasi. E noi l'abbiamo avuta. Giulia, eccomi. Sono andata avanti negli anni, tu in America, Alberto Pellai che diceva... Ecco, io l'avevo proposta come mito, gli americani l'hanno sentito. È troppo grande. Vabbè, non lo so, magari. Non credo che le Giulia Carcasi, le varie Giulia Carcasi possano sostituirsi a Paris Hilton. Però penso che invece ci sono dei modelli pop che funzionano. Ecco, dai, che così prendiamo appunti e li sfoderiamo ai nostri figli, vai. Credo che un Tiziano Ferro sia una valida alternativa, perché comunque è un ragazzo che ha un talento innegabile, insomma, può piacere o non piacere, ma il talento è innegabile. Si è costruito da solo e ha cercato di fare sempre prodotti di qualità. Ha studiato, perché non è che un cantante improvvisato. Sì, si vede anche nei testi, insomma. Sì. Penso si possano trovare altri modelli. Vabbè, io sono un caso un po' anomalo, perché io come modello avevo Alda Merini, che è diametralmente opposta a Paris Hilton. Sì, certo. Oppure Gianna Nannini, insomma. Ci sono fortunatamente prodotti di qualità che vengono anche apprezzati e penso che questo sia l'unico modo per poter fare un'inversione di marcia. Ringraziamo Chiara Simonelli, grazie per essere stata con noi, un abbraccio, a presto. Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie. In bocca al lupo a Giulia Carcasi, che è stata nostra così opinionista per oggi, veramente un'opinionista che è stata illuminante. Grazie Giulia. E complimenti. Grazie a voi per l'invito e a chi ci ha messo l'orecchio, insomma. Grazie. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo tornati insieme, Alberto, e siamo pronti per metterci al lavoro. Anche per un oggi, nuovo laboratorio. Nuovo e ultimo, ma sai che gli ultimi saranno i primi. Oggi abbiamo un laboratorio bellissimo da proporre ai nostri genitori. Allora salutiamo subito la dottoressa Beba Restelli, allieva di Bruno Munari e autrice di molti libri, tra cui uno che ci è piaciuto in modo particolare, di cui mi piacerebbe proprio parlare oggi, che si intitola Giocare con tatto per un'educazione plurisensoriale, proprio secondo il metodo di Bruno Munari, ed edito da Franco Angeli. Dottoressa Restelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Allora, qua c'è da lavorare, perché la natura è un laboratorio infinito per un bambino, anche per un preadolescente, direi anche per noi genitori, che possiamo affiancare i nostri bambini e quindi scoprire questa natura e trasformarla un po' sotto le nostre mani. Certo, questo naturalmente non solo al mare, ma anche in montagna, in campagna, ma anche nei cortili e nei parchi per chi rimane in città. Innanzitutto occorre saper guardare, osservare con molta attenzione forme, segni, colori, proviamo un pochino a esplorare il noto e anche a lasciarci guidare dal senso acutissimo dei bambini che sanno osservare molto bene. Osservano tante volte con altri occhi. Sì, infatti, anzi se noi ci lasciamo guidare da questo loro senso così sviluppato, ci aiutano a scoprire cose che non avremmo visto. Mi viene in mente quando Munari mi diceva basta un metro quadrato di prato per scoprire un mondo nuovo, fili d'erba, quelli sottili, grossi, foglioline, dalle forme allungate o arrotondate, vellutate o pelose, fiori, insetti, proprio accucciandoci ad altezza bimbo e guardando e cercando di scoprire tutto quello che si nasconde in questo metro quadrato che possiamo poi fotografare, annotare, disegnare, creare erbarie, composizioni. E se posso permettermi di dare un suggerimento ai genitori di fare domande, di aiutare i bambini a fare scoperte domandando loro che cosa vedono, che cosa scoprono. Questo è molto importante, forse anche alleggerisce quei genitori che dicono ma io non sono un botanico, non sono capace di dare tutte le spiegazioni, quelli possiamo andare poi in libreria e cercare un altro libro. E quindi fare domande e poi osservare. Stavo pensando quando lei ha citato il suo maestro, beh, che ricchezza. Poter vivere accanto ad un grande come Bruno Munari e quindi a vedere un po' la vita attraverso i suoi occhi. Eh sì, ma è una persona che le ha cambiato la vita sicuramente, no? Sì, le ha colto proprio l'essenza e mi ha aiutato a vedere di più e a godere di tutto quello che si può osservare e creare con poco. Quindi il mio compito è proprio quello di aiutare i bambini ad essere creativi e i genitori a giocare con loro. Senta, si ricorda qualcosa che lei ha visto con gli occhi di Bruno Munari? Magari ci era passata accanto mille volte e non l'aveva mai notato, una scoperta? Beh, per esempio le superfici texturizzate. E questa è una scoperta che si rinnova sempre quando lavoro con gli insegnanti nei corsi di formazione, cioè dalle cortecce, i muri, le superfici zigrinate, cioè tutte quelle superfici che, come dire, sono caratterizzate da piccoli segni. Sì. E quando giochiamo alla tecnica del ricalco, poi possiamo anche parlare dei giochi, per esempio come poter ricalcare le cortecce degli alberi, finita questa attività, le insegnanti dicono ma io adesso vedo tutto in un altro modo. Alberto, io so che tu pendi dalle labbra di Beva Restelli perché sicuramente troverai degli spunti, certo. E con guarda, te tanti genitori per proprio confermare, perché lo scorso inverno siamo andati al MUBA con i bambini, c'era una bellissima mostra gioco interattiva piena di cose da fare per i bambini e questo aspetto proprio dei tessuti, della testurizzazione delle superfici è stata una delle cose che più ha appassionato i nostri bambini. Bisognava proprio mettere su un foglio bianco sopra superfici che avevano rilievi diversi, giochi, trame diverse, giochi diversi e poi passare sopra e per loro è stato magnifico collezionare un'infinità di diversi profili sul loro foglio in base alle superfici che sceglievano. Ecco, noi lo stiamo suggerendo per i bambini, ma io credo che questi lavori di cui parleremo con Beba Restelli funzionino anche per noi adulti, sono assolutamente rilassanti, sempre nuovi e poi stimolano la nostra creatività, possono alimentare anche magari delle nuove idee magari per il lavoro che ci aspetta poi a settembre, perché gli spunti possono arrivare anche da molto lontano. Allora io le chiederei, stavo dicendo, proprio questa tecnica del ricalco è ideale per genitori adulti, perché non c'è paura di sbagliare. Vede, ecco, e quindi sì, proprio questa ci rinsalda un po', ci dà sicurezza. Sì. Allora proviamo partendo proprio dagli elementi naturali, dalla sabbia ad esempio, oppure dalla terra, a suggerire qualche lavoretto per i nostri bambini, qualche esperimento. Certo, proprio con sabbia e sassi possiamo costruire giardini secchi come quelli che i monaci giapponesi hanno creato per le loro meditazioni, sono i famosi giardini zen, detti anche kare sansui secchi, dove sui significa acqua e secchi pietra, e sono questi paesaggi di pietre e di sabbia. E proprio ispirandomi a questi giardini zen ho creato con i bambini dei laboratori. A Milano utilizzavamo coperchi di scatole e sabbia e sassi. Chi è al mare naturalmente può giocare sulla sabbia, si individua un'area, ogni bambino riceverà, si decide se vogliono fare i giardini rettangolari oppure di forma quadrata, eccetera. E con questa sabbia si possono anche creare delle piccole colline oppure addirittura un vulcano, e poi si raccolgono dei sassi, sassi piccoli, sassi grandi, e li disponiamo magari su un telo. L'importante è poter isolare questi elementi e poterli guardare e osservare bene uno ad uno. Improvvisamente questi sassi si animano, perché un bambino vede, dice: guarda, lì c'è una grotta, oppure da là potrebbe scendere un fiume. Ecco che appunto da lontano sembra un'isola. Questi sono alcuni dei commenti che facevano i bambini. E allora suggerire: ma noi con questi sassi, che poi appunto diventano delle isole, delle montagne, potremmo costruire dei paesaggi, e poi anche utilizzare altri materiali per creare paesaggi fantastici. Non dobbiamo limitarci rigorosamente a ripetere i giardini zen con qui per esempio in queste spiagge dove ci sono molte nel mare molte poseidonie, troviamo proprio delle palline, quelle che chiamano le patate di mare, che sì, sono degli appallottolamenti di alghe, oppure dei rametti con un ciuffettino d'alga in alto, che sono poi le radici delle poseidonie, che danno sempre, cioè talvolta danno molto fastidio ai bambini, invece ecco un modo di poter per rendergli un po' più simpatiche e creare dei giardini. E poi si va in spiaggia quel giorno soltanto con un rastrellino, perché allora si può anche rastrellare questa sabbia. I monaci lo fanno perché per loro la sabbia è l'acqua e le pietre sono le montagne, quindi c'è tutto un discorso simbolico. Ma senza entrare anche in questi discorsi, i bambini possono creare i loro giardini anche con dei legni, conchiglie e poi quant'altro la fantasia, ma soprattutto la natura offre, perché la natura ci regala molti oggetti. Li abbiamo lì a disposizione, basta saperli utilizzare, vederli. Eh? Sì, torniamo all'osservazione. Alberto. E a proposito di vedere, c'è una cosa invisibile con cui però è possibile far giocare in modo molto divertente i bambini, cioè l'aria. Ci aiuta a fare un piccolo laboratorio usando l'aria come strumento, come elemento naturale? Sì, questo proprio si rifà un'esperienza di Munari che ha chiamato far vedere l'aria, a partire dall'osservazione di come cade un seme d'acero. Questi semi d'acero secchi hanno una caduta elicoidale. E a partire da questa osservazione di natura, Munari ha preparato tutta una serie di striscioline di carta di forme diverse, da quelle rettangolari di 3 cm per 30, a quelle triangolari, ad altre forme quadrate, e le ha provate a lanciare la prima volta dalla torre del Broletto di Como. E poi via via questa esperienza l'ha portata avanti, facendo cadere tutte queste striscioline di aria, e diceva: sai, queste dopo ti fanno vedere l'aria, perché ognuna si muove in un modo diverso, ed è uno spettacolo che abbiamo ripreso per i 90 anni di Munari alla Triennale. Bellissimo, chissà che mamma ha avuto Munari, perché gli ha lasciato dentro di lui il bambino. Ma Munari racconta che lui è cresciuto ragazzino a Badia Polesine, quindi vicino al fiume Adige, i genitori conducevano un albergo e diceva: sai, mia mamma mi diceva che bisogna dormire in fretta, il lavoro era tanto. È lui proprio che aveva dentro una curiosità straordinaria. E in un suo libro Giochi e Grafica ci racconta in un modo meraviglioso i suoi primi giocattoli. Il giocattolo più grande era la terra. Vedi. E diceva, sai, lì non dovevo mai mettere a posto niente. La comodità. E Alberto? E così è, perché il giocattolo più grande per i bambini, per esempio in estate, è proprio terra e sabbia. Un po' impastate, si fanno delle formine magnifiche. Io starei con lei ore, anzi verrò a trovarla perché, con piacere, perché mi piacerebbe con lei parlare ancora di Bruno Munari, insomma, e poi imparare da lei così come proprio mettersi in gioco, riscoprire tutte queste cose che, quindi ci vedremo presto. Posso spero aggiungere ancora una cosa che ho dimenticato? Certo, la regola del gioco, che è importantissima. Diamola. Quindi ogni gioco, per ogni gioco dobbiamo trovare una regola, perché sì, i bambini sanno che ogni gioco appunto ha la regola. Nel caso sabbia e sassi potremmo individuarla nel numero dei sassi. Quindi questo gioco però puoi prendere, non so, 5 sassi, un numero di sassi dispari, 5 grandi e non più di 3 o 7 piccoli, in modo che ci sia sempre una regola. Bene, che funziona anche un po' da paletto e da stimolo, perché. Allora, salutiamo Beba Restelli, è stato davvero un piacere stare con lei. Grazie, grazie a voi. Sentiamoci presto. Grazie Alberto, anche noi ci sentiremo presto. La prossima settimana ci saremo, vero? Certo. Allora, buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.